Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Mr. Kilowatt. Questa sera riprendiamo a parlare di comfort, di come creare una situazione di comfort con l'estate che si avvicina senza ricorrere ai condizionatori, con delle misure che potremmo definire naturali, ma soprattutto che potremmo definire passive, almeno al 90%, come vedremo. Nella puntata di ieri, come prima cosa, abbiamo cercato di capire che cos'è che rende confortevole un ambiente. Abbiamo per esempio scoperto che non conta solo la temperatura dell'aria, che è la prima cosa che ci viene in mente, ma conta molto anche la temperatura dei muri che ci circondano e che ci trasmettono, assorbono calore proveniente dal nostro corpo. Conta molto, ma questo è già più comprensibile, la velocità dell'aria. Una bella brezzolina naturalmente ci rinfresca, a meno che non sia l'aria di un phon. Questa sera allora ci concentriamo e cerchiamo proprio di tirare fuori quelli che sono gli accorgimenti passivi, comportamenti anche, che possiamo avere per rendere più confortevole naturalmente l'ambiente estivo senza bisogno di ricorrere al condizionatore. E naturalmente è Stefano Corniati, il nostro ospite di questa sera, che ci ha già fatto compagnia durante la scorsa puntata, ricercatore di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Torino ed esperto proprio di climatizzazione e qualità ambientale negli edifici. Buonasera Stefano Corniati. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Iniziamo quindi a cercare di spiegare quali sono gli accorgimenti che si possono prendere. A me viene in mente una sola parola d'ordine però, che è ombra. Ma la parola d'ordine la condivido pienamente, estremizzando: in periodo estivo il grande nemico è il sole. E quindi occorre in tutti i modi cercare di andare a controllare il suo ingresso all'interno degli edifici, evitandolo il più possibile. Cioè bisogna fermare il sole prima che entri in casa e non dopo. Dopo diventa veramente difficile liberarsi di questa luce che si è trasformata ormai in calore. È proprio così, e proprio per questo motivo si sono sviluppate, devo dire soprattutto poi negli ultimi anni, delle tecnologie che sono figlie della nostra vecchia tradizione mediterranea, vanno dalle schermature esterne ai drappeggi tendaggi esterni, all'uso del verde sia in copertura, i famosi tetti verdi, importantissimo il verde verticale, cioè parietale, perché come abbiamo già sottolineato durante la scorsa puntata, in estate è ancora più importante che nel periodo invernale determinare la presenza di muri freddi all'interno delle case, in modo tale che venga evitato il rilascio di calore all'interno delle nostre abitazioni e quindi evitare che i muri tendano nelle ore diurne ad accumulare calore per poi disperderlo durante le ore notturne. Io direi che possiamo fare un esempio. Una situazione tipica è il terrazzo in cima a un condominio. Chi abita all'ultimo piano si trova sulla testa una superficie che a volte addirittura è rifinita con bitume nero che raggiunge gli 80 gradi di temperatura. Ecco, se invece io là sopra ci mettessi un pergolato, per esempio, che fa ombra, un po' di uva, di kiwi, non lo so, un rampicante con dei fiori, come mi cambia la situazione in questo appartamento dell'ultimo piano? Allora, ci sono due aspetti. Prima di tutto, come diceva correttamente, c'è un problema di colore delle superfici, perché è importantissimo ricordare che tutte le superfici chiare tendono a riflettere la radiazione solare, quindi evitano un forte accumulo solare. L'altro poi è invece l'effetto di schermatura, a cui nel caso di utilizzo di tetti ricoperti da verde si aggiunge anche l'effetto estremamente positivo della evaporazione dell'acqua, certo, dalle piante. Certo, che proprio porta via calore. È per quello che in una foresta, anche quando fa caldo, normalmente si sta freschi. È proprio così, ed è in effetti lo strumento che maggiormente garantisce l'asportazione del calore, è quello di mettere in gioco l'evaporazione dell'acqua. E quindi coperture sui terrazzi orizzontali sono forse la cosa più importante di tutte, ma diceva anche coperture verticali. Ecco, ci sono anche dei sistemi molto sofisticati come i giardini verticali, che però sono costosi, ma anche un po' di piante sui balconi aiutano, vero? Assolutamente sì, noi non dobbiamo mai dimenticare le nostre tradizioni mediterranee, che vedevano da sempre la presenza di verde sui nostri balconi o di rampicanti sulle nostre pareti, soprattutto perché i fabbisogni di raffrescamento stanno molto aumentando e le nostre attese di raffrescamento sono diventate molto molto forti. Quindi per evitare l'uso dei condizionatori, un primo grande intervento che noi possiamo fare completamente passivo e tornare ad essere dei veri e propri amanti del verde nelle nostre case. Ecco, poi ci sono, io credo che possiamo concludere con qualche piccolo accorgimento, qualche piccola anche tecnologia sostitutiva. Mi viene in mente come prima cosa il buon ventilatore da soffitto, no? Sì, adesso noi siamo molto molto influenzati da una situazione mediatica che ci porta il condizionamento complessivo dell'aria come la soluzione ultima, ma non dimentichiamo che di nuovo la nostra tradizione era la tradizione del ventilatore o del ventaglio, in cui si va a cambiare non la temperatura dell'aria ma la sua velocità, e sappiamo bene che aumentando la velocità dell'aria noi, il nostro corpo è in grado di maggiormente rilasciare calore all'interno dell'ambiente in cui noi siamo. È proprio quella, insomma, lezioncina che abbiamo fatto l'ultima volta. La velocità dell'aria era una delle quattro variabili fisiche fondamentali per definire il livello di comfort. Grazie Stefano Corniati. Grazie a voi e a risentirci a presto. In chiusura ancora un consiglio: oltre a evitare che si surriscaldino i muri, bisogna anche evitare che il sole entri dalle finestre, quindi tenete le imposte chiuse di giorno, soprattutto quelle delle finestre, delle porte finestre che si affacciano a est e a ovest, dove il sole sorge e tramonta, quindi è molto basso sull'orizzonte. Domani invece torniamo a parlare dell'energy catalyzer di Andrea Rossi, l'oggetto che produrrebbe energia grazie a delle reazioni nucleari a bassa energia, appunto la cosiddetta fusione fredda, termine però scorretto. Molti ricercatori nelle ultime settimane hanno cercato di capire se può funzionare e le risposte sembra proprio che siano positive. A domani.